Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Insigne per Diawara, dentro ancora per lo scatto di Mertens che fa secco l'avversario, la mette dentro Emanuele Scioccherini. Andiamo a giocare contro i campioni del mondo, no? Non lo sappiamo se siamo in grado non di fare il risultato, non siamo in grado, non sappiamo neanche se siamo in grado di poterci giocare contro questi. E quindi bisogna andare lì con un pizzico di timore, perché ci può dare grande attenzione, grande applicazione e con tanta faccia di... Paredes vuole inventare per Salah, un buon pallone, lo gira Salah, secco! Ha raddoppiato la Roma, 18 gol in campionato per il capocannoniere della Serie A, Edin Dzeko. Eder all'esterno a cambiare il gioco dall'altra parte e arriva Candreva a mettere dentro il gol del 2-0. Gomez dentro Petagna e che sì, Gomez arriva ora, il pallone messo in mezzo, il colpo di testa, la chiude l'Atalanta con Brian Cristante, altra azione spaziale dell'Atalanta, 3-1. Marchisio che imbuca per Higuain, la posizione regolare, Higuain alza il pallone e lo mette in porta al primo tiro, la Juve passa, tanto per cambiare, con Gonzalo Higuain. L'importante era vincere in una trasferta difficile, dove loro in casa sempre partano bene, e l'importante era portare 3 punti a casa. Adesso riposiamo e prepariamo lunedì, con tutto il rispetto per il Palermo, ma continuiamo in questa strada. Vabbè, se aspettavamo nuovi temi di cui discutere da questo weekend, ci siamo trovati di fronte a un brodo di dado, no? Ma com'era facile attendersi, peraltro molto lungo, perché è cominciato venerdì, non si è ancora concluso, questa sera si gioca Lazio-Milan. Giorgio De Luca era in redazione, è il nostro autore, ma ha fatto le valigie ed è volato a Madrid a seguire il Napoli. Lo risentiremo da lì. C'è invece Edoardo Lavezzani in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Dunque, un brodo di dado. Poi possiamo parlare della tripletta di Inglese dopo aver sbagliato un rigore, che certamente bomber non è, ma mi sembrano argomenti abbastanza di confine. Comunque, siete sempre tutti convocati, perché ad aggiungere i tanto pepe a questo brodo di dado si sono messe le iene che hanno stanato Rizzoli, e torniamo sempre lì. Poi arriva Oscar Giannino che dice basta, basta, basta, sì, con basta! Grande piacere, eccolo qui, ecco, basta, va bene, sentiamo Rizzoli alle iene. Credo che l'Inter stia cercando di far di tutto per scontare delle giornate di squalifica dei suoi giocatori, ed è comprensibile l'atteggiamento, poi dopo i modi sono criticabili, come è criticabile l'operato di un arbitro. Cioè no. Non c'è studi danza? No, okay. Assolutamente no. Mi sembra davvero dimostrato, si è parlato all'inizio del campionato di un errore contro la Juventus che avrei fatto io quando giocava contro il Milan. Tutti siamo allenatori, tutti siamo calciatori, tutti arbitri. Siamo arbitri. Il problema è che quando uno prende una decisione, in Italia è criticabile la decisione. Compare in regia anche il pregevole Alessandro Marcotulli, laziale che aspetta il Milan questa sera in casa, un Milan rimaneggiatissimo con, pare, il nuovo arrivato falso 9 e dell'Ofeu, cui il mio amico Maurizio Corsetti ha già attaccato l'etichetta di campione che io contesto. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? Molto bene, tu? Bene, saluto in questo istante, è arrivato da Cagliari. È arrivato da Cagliari. Schiena a pezzi. Schiena a pezzi, che è successo? No, la scomodo del letto? Sì, no, no, tutto a posto. Sotto controllo. Ah no, ma ti sei mangiato l'unico zuccherino della giornata. Pensavi alla partita? No, pensavo alla partita, pensavo a Gigi Riva, di cui poi parleremo. Momento strepitoso. Aspetta. Momento bellissimo. Che ti sei mangiato? Mi suggeriscono. In regia sono curiosi. Che ti sei mangiato a Cagliari? Un'orgia di antipasti da segnalare una catalana di tonno di grandissimo livello, abbastanza cipollata come piace a tutti gli esseri umani. E poi abbiamo due assaggini, un classico Vongole Bottarga con una fregola. Classica, no, fregola, classico carboidrato. Che tempo com'era? C'era l'avvento, la partita l'hai vista. No, ho visto la partita, ho visto che c'era l'avvento, ma ti invidio lo stesso e mi stai anche un po' sulle scatole. Tutto visto, mano, ti vedevo ieri. Ma lascia stare, va, se no mi fa arrabbiare subito. Sardegna, visto sempre da Dio. Grazie, qua è lunedì. Tanto sì, guarda, è lunedì. Sì, lunedì, guarda fuori dalla finestra. Sono a Cologno, esatto. Guarda fuori dalla finestra. Bella anche Cologno. Ieri era così uguale, Era così uguale. Uguale. E io ero lo stesso posto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo sentito Rizzoli stranato dalle Iene. Ieri è comparso Nicchi alla Domenica Sportiva. Poteva parlare pure un po' prima. Io credo che sia arrivato il momento di mettere una parola fine a questa polemica che non giova niente a nessuno, perché con questa polemica che c'è stata, io credo sia stata dimenticata una bella partita che tutti abbiamo visto, con qualche episodio da decifrare. E credo che ognuno per la propria parte debba archiviare una settimana che secondo me non fa bene. Vabbè. 800 24 00 24, 349 238 6666, il primo per le vostre telefonate, giusto per essere chiari e precisi. Il secondo contatto invece per SMS e WhatsApp. Basta Juve Inter, ragione sconcerti, l'unica sudditanza non avuti i media nei confronti dell'Inter. Vabbè, andiamo avanti. Traffico, poi torniamo con delle teste coronate. Tutti convocati. Tutti convocati. Io voglio ringraziare ufficialmente il presidente del CONI perché è partito da Roma per venire a casa mia a darmi un trofeo bellissimo. E quindi questo è la semplicità. Tu hai detto che uno su tanti ce ne sono, ma l'unico sono io. Ma anche tu sei l'unico presidente che ha preso l'aereo e è venuto a trovarmi. No, dicevo, parlavo di Dolce, no? Di queste, questo collare d'onore messo al collo di Gigi Riva, è stato lo zucchero della domenica. Malagò è un atleta, è un amico degli atleti, ha un approccio molto protettivo con gli atleti, soprattutto con i grandi atleti, quelli di oggi e quelli di ieri. Riva merita tutto, merita mille collari di tutti i metalli più preziosi che esistano. Devo dire, mi ha molto colpito vedere, la cosa sarà molto bella e sarà molto commovente nella sua semplicità, mi ha colpito molto vedere la curva dei ragazzi del Cagliari, che magari è popolata, immagino, di persone che Gigi Riva non l'hanno mai visto davvero in campo, e sono tributati quel tipo di applauso. È quasi, io penso, guarda, non voglio bestemmiare, penso Gigi Riva sia a Cagliari come Maradona sta a Napoli, cioè stiamo parlando sì, di no, non bestemmia affatto, sono identificazioni molto rare probabilmente, no, ma è stato molto bello poi anche l'abbraccio tra Roma sarà la stessa cosa, sì Pierluigi, sì, e poi è stato anche molto bello l'abbraccio tra forse il più grande attaccante del calcio italiano, della storia del calcio italiano, non lo so, lascio decidere anche a voi se volete, e quello che anche qui lascio decidere a voi. L'abbraccio tra lui e un altro Gigi che forse è stato il più grande portiere della storia del calcio italiano, e la sua storia non si è ancora conclusa. Ma saluto, a proposito di teste coronate, il cavalier Gianni De Biasi, che invece contro Gigi Riva ha giocato. Ciao Gianni. Ciao, buongiorno. Anzi, conservo un ricordo bellissimo di Gigi Riva. Io giocavo a Treviso, era l'inizio della mia carriera, l'anno dopo sarei andato all'Inter, e so che ho una foto con lui in bianco e nero molto molto bella. che magari posterò più avanti, dai, tanto non ho tempo per i social in questo momento. Hai tempo per i social? Devo dare, devo chiamarti cavaliere, non lo so, devo, no, posso chiamami... continuare Gian con Gianni, va benissimo, se, benissimo, se benissimo, vuole le do del lei o del voi, no, eh? No, no, no. Illustris in Granduf, no, niente, Granduf. No, invece parlavate dell'abbraccio tra due grandissimi, io, il nostro portiere contemporaneo invece, Gigi Buffon, io l'ho votato per il Pallone d'Oro, sono stato forse uno dei pochi che l'ha votato, anche perché io ritengo che fosse doveroso un omaggio a Gigi Buffon con quello che ha fatto sia in mondiale che in carriera. Io credo che sia un Pallone d'Oro che meriterebbe il nostro buon Gigi. Vabbè, glielo assegniamo honoris causa, senza problemi. Poi, esatto, poi esatto. Io sono contrario ai paragoni epocali, no Gianni, perché sono un bel giochetto da bar, però ho detto prima forse il più grande attaccante della storia del calcio italiano Gigi Riva, la storia di Buffon non si è ancora conclusa, forse il più grande portiere della storia del calcio italiano, ma sono divertissement che lasciano il tempo che trovano. Sì, ne abbiamo avuti tanti, di attaccanti e di portieri bravi, esatto. Ne abbiamo avuto una scuola da Dino Zoff a tanti altri che non sto qui adesso a nominare. Io credo che ogni periodo, ogni contesto storico abbia i suoi proprio grandi, protagonista, bravo, sì, bravo. E poi noi ci ricordiamo quelli attuali perché è più facile, perché abbiamo sott'occhio, perché oggi la televisione ce li fa vedere in maniera diversa. Sì, ragazzi, Pierluigi Pardo, Gianni De Biasi, un Inter tutto sommato ieri il weekend ha offerto poco perché tutto è andato secondo pronostico, a proposito sia Pardo che Capuano hanno infuriato con una schedina che era facilissima, peraltro una bazzecola. Sì, ma Capuano già ha twittato stamattina che ha vinto perché non so cosa è successo nel finale di Samp Bologna. Vabbè, tanto queste polemiche vinto, a domani, vinto, sì, queste polemiche lasciamo passare a Lazio Milan. Insomma, ha fatto al momento 7 su 9, insomma, non brutto. Ecco. Non male. Comunque, reazione dell'Inter a una settimana difficile, tutto sommato buona, Gianni? Beh, una reazione molto buona. Io credo che il lavoro di Pioli stia venendo fuori e mi dispiace per tutte le polemiche che ci sono state dopo la partita con la Juventus. Credo che da questo punto di vista qui dobbiamo ancora migliorare molto noi italiani in genere nel cercare di fare un po' meno dietrologia e cercare di accettare quello che è il verdetto del campo, anche se a volte è faticoso, però credo che non dobbiamo alimentare polemiche, perché siamo in momenti in cui il calcio deve essere veramente uno svago, perché ci sono tante altre realtà che ci inquietano parecchio. Sì, assolutamente, ma a chi stiamo parlando di preciso? A quelli che vanno allo stadio, che fanno la pagnolada, o stiamo parlando anche agli dirigenti? No, la pagnolada è frutto di tutto quello che è stato certo. Detto, ma poi finché si estrinse che hai una pagnolata va benissimo, io credo che nessun problema da questo punto no, di vista. No, assolutamente. Il problema ma è quando poi ci sono reazioni incontrollate. Sì, poi Gianni, però ci vengono a parlare di cultura sportiva, di queste pippe mentali qui, no, che sarebbero cose grandissime, non pippe mentali, ma lo diventano nel momento in cui vengono tirate fuori quando conviene. Sì, appunto, ognuno deve tirare fuori dal proprio zaino i torti che si è messo da parte nel corso della stagione. Io credo che bisogna inchinarsi un po' a quello che è il verdetto del campo senza star lì a fare dietrologia. Poi parliamo di un arbitraggio, di un arbitro che bisognerebbe togliersi il cappello di fronte a una persona, secondo me, integerrima, capace come Rizzoli. Io credo che veramente non si possa. Poi ognuno nella vita può sbagliare e nessuno può disconoscere che ci possono essere anche degli errori nel corso di una direzione di gara, ma nessuno deve mettere in dubbio la buona fede. E poi non c'è sempre il solito sbagliano sempre per quel verso lì e mai per quest'altro. Guardate, io di errori arbitrali ne ho avuti tantissimi in carriera e non sono stato qui certo a piagnucolare. Io credo che il piangersi addosso non serve assolutamente a niente, bisogna guardare avanti e cercare di pensare al futuro con grande serenità. Esatto, a me dà fastidio anche perché crea facili ombrelli da aprire, esatto, facili esatto, alibi esatto. Da aprire. Questo vale per tutti quanti, dai giocatori agli allenatori, ai dirigenti, ai sì, proprietari però dei club. Che siamo tornati per quello che riguarda Juve Inter in una fase di un certo tipo che non è che mi faccia piacere, lo considero un'occasione persa, quella stretta di mano che è stata buttata via, no? Da tutto quello che è successo dopo. Cioè, secondo me c'è un elemento proprio di di antipatia societaria, di antipatia antropologica, adesso non voglio esagerare, fra due diverse identità, e quindi per questo motivo se ne è parlato così tanto, perché poi ripeto, gli episodi di quella partita ci sono stati, li possiamo discutere, ma sono tutti episodi appunto dei quali si può discutere, non sono episodi clamorosi, non sono errori clamorosi, e quindi il fatto però che se ne sia discusso così tanto e che si sia innescato un meccanismo che è durato nei giorni dopo con una serie di colpi di scena anche e di dichiarazioni continue di Elkan, vuol dire solo una cosa, no? Vuol dire soltanto che siamo benissimo, sì, una parola grossa, però di fondo è quello, cioè non ci stiamo simpatici per niente. No, ma era una cosa quella, io continuo a ripeterlo con il massimo rispetto, che ce la potevamo risparmiare tutti a partire da Elkan, quella chiosa, sì, sì, quella chiosa che è arrivata oltre il tempo massimo, peraltro. I juventini ti dicono che quella cosa lì è nata perché va bene, il video, sì, quindi va bene, è tutto un meccanismo, ma, no? Sì, va bene, ma finché la diciamo al bar, ok, poi quando la dice il dottor professor ingegnere Grandufficiale, con tutto il rispetto, ripeto, John Elkan, fa un altro rumore, fa un altro effetto. Invece a Gianni De Biasi voglio chiedere a entrambi poi due domande specifiche da allenatore. Il treno per l'Inter è passato per la Champions, guardiamo la classifica, o se è sul treno l'Inter, sul treno anche l'Atalanta, ditemi com'è. Ma a me piacerebbe tanto pensare che l'Atalanta possa durare fino in fondo e ritagliarsi uno spazio europeo, sarebbe bellissimo, sarebbe molto romantico, anche se credo che i valori in campo, visto e considerato l'andamento sia della Roma che del Napoli, sia difficile per l'Atalanta. Per quanto riguarda l'Inter, credo che mai dire mai, se pensiamo alla Juventus della passata stagione, in ritardo pesantissimo e poi ha intrapreso un cammino incredibile. Oggi l'Inter, a parte la sconfitta contro la Juventus, ha un ruolino di marcia invidiabile e quindi nessuno può negare che possa eventualmente inserirsi per un, per un ruolo. Tanto distacco, distacco lungo. Sì, sì, no, è lunghissimo, ma era lunghissimo anche quello della Juventus, anche se tu mi dirai che ci erano altri presupposti, altra qualità tecnica e quant'altro. Nel calcio mai dire mai, anche se oggi la logica ti dice che prima sarà la Juve, secondo una lotta tra Napoli e Roma, e quindi poi il secondo e il terzo posto varia a seconda di chi avrà una costanza di rendimento e chi sarà meno usurato da essere impegnato su due fronti. Certo, la pensi anche tu così, Pierluigi? Ma io penso che ancora ci siano dei margini. Margini? Non per lo scudetto. Stiamo parlando di secondo, terzo, quarto posto. Perché l'Inter possa inserirsi, nel senso che comunque l'Inter, adesso abbiamo degli scontri diretti che ci diranno abbastanza la verità, no? La verità vi prego sull'amore, la verità vi prego sul campionato. Le distanze non sono così enormi. È chiaro che per esempio adesso tra due settimane c'è Inter-Roma, l'Inter è a meno 8 dalla Roma in questo momento, è chiaro che ha un solo risultato da quel punto di vista. Detto questo, insomma, che Roma e Napoli siano, per me sono comunque più attrezzate, però è vero che Pioli sta facendo un lavoro di grandissimo livello, la squadra l'ha migliorata in tutte le parti, per cui insomma oggi l'Inter secondo me è su quel livello lì. Quanto all'Atalanta, io credo che già l'Europa League sarebbe un risultato spaziale. Sì. Per quelli che sono i budget e per quelle che erano le premesse della vittoria. Non c'è dubbio, sì, la stagione mi sembra complicato. Però stessi punti dell'Inter, in ogni caso. Invece, per chiudere con Gianni De Biasi, due domande da allenatore. Allora, Allegri ha convinto tutti gli attori al sacrificio con questa formula che è disegnata per salire sulla strada che porta alla cima d'Europa, io credo. La leggo adesso così, formazione nata quasi come un dispetto a chi lo criticava in quella partita con la Lazio, è poi diventata una cosa seria, una storia reale. Questa è la prima domanda. La seconda riguarda Claudio Ranieri. Adesso ieri ha perso di nuovo. Insomma, quando ti trovi con la squadra campione che ha compiuto un'impresa in una situazione così, io ti dico, comincio ad essere pessimista. Partiamo dall'ultima, anch'io lo sono perché probabilmente questa squadra ha perso quella che era la caratteristica dell'anno scorso, a parte di aver perso Kanté, che è un giocatore con motorino e tutto il resto, non posso pensare che perdere solo Kanté possa equivalere. Esatto. Io credo che abbiano perso l'umiltà che l'anno scorso gli ha accompagnati a fare qualcosa di straordinario, e credo che questo sia il primo scoglio con il quale ha dovuto scontrarsi Ranieri quest'estate. I giocatori non se ne rendono conto, ma giorno per giorno perdono qualcosa. E ti diranno sempre: io mi alleno come l'anno scorso, faccio le cose che facevo l'anno scorso. Sì, gli manca qualcosa in più dentro la testa che gli faceva fare le cose senza pensieri, senza che gli pesassero, senza guardare a quello che fa il mio compagno e non a quello che faccio io. Sono tutte quelle situazioni che io ci sono passato all'inizio di questa qualificazione, certo, europea, certo, è il primo discorso, certo, che ho fatto alla squadra, certo, dimentichiamo, certo, quello che abbiamo fatto e pensiamo a ricominciare da capo, da zero, anche se so che è più facile dirlo che farlo. Dall'altro lato, la prima domanda non me la ricordo più, ah sì, quella di Allegri, io credo che sia stata una scelta che lui aveva in testa ma che non aveva ancora trovato gli equilibri per metterla in atto. Ci ha provato in una partita, visto che gli è andata bene, e credo che i giocatori dentro la rosa abbiano capito che se non si danno da fare, non lottano e non corrono, difficilmente possono giocare tutti e tre insieme. Mi riferisco a Dybala, Higuain, e Higuain giocherà sempre. E io credo che Mandzukic si sia snaturando, cercando di fare delle cose che magari prima non faceva, rientra tantissimo, corre molto nella fase del non possesso e poi è bravo anche nel dare una grossa mano e essere uomo gol e uomo assist. Grazie Gianni. Grazie a voi. Grazie signor Cavalier. Gianni De Biasi. Allora ci fermiamo per la borsa, torniamo a 800240024, il nostro contatto. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Convocati. Domani incontriamo una squadra forte, organizzata, che magari può avere qualche defezione, ma ha un organico di altissimo livello, quindi già a Bologna, insomma, quelli che hanno giocato dopo hanno dimostrato di essere da Milan, hanno una rosa importante. Che è forte, che è completo, che è esperto, mixato a giovani molto interessanti, che sono fisici, squadra molto abile anche negli spazi, hanno tante armi, tanti calciatori che vanno a rete, la squadra che ha segnato più di testa, ma questo è un dettaglio, non può essere un nostro pensiero continuo, noi dobbiamo pensare a fare il meglio. Questo era un preview degli allenatori di Inzaghi e di Montella, un preview di Lazio-Milan che vedremo stasera. È giornata in cui parliamo di grandi attaccanti. A proposito, Pardo, ho un messaggio del padre spirituale di tutte le trasmissioni sportive di Radio 24, Mario Bartoletti, che arriva domani. Riva è rimasto per sempre a Napoli, a Cagliari. Maradona no, a proposito del parallelo che facevi tu. Sì, sì, è vero, è giusto. Sicuramente questo corretto. Vive in altri posti, però io credo che insomma il discorso, il paragone sia un paragone di identificazione, sì, sì, quasi sociologico, dai, di una città intera con un giocatore solo, certo, insomma, più tifoseria intera con un giocatore solo. A proposito di enormi attaccanti, ne abbiamo uno dei più grandi che ha calcato i nostri Prati ed Hernan Crespo. Ciao. Buongiorno. Ciao Hernan. Ciao. Senti, partiamo da questo Lazio-Milan, due squadre che conosci bene. 273 gol, 273 per Hernan Crespo in squadre di club, 154 in Serie A tra Parma, Lazio, Inter e Milan. Senti, nel dettaglio, anche a te domanda da allenatore quale sei. Lazio, centravanti classico, Immobile, 12 gol, buona stagione. Bacca invece sacrificato e Montella si gioca il falso 9 De Lofeu. Un po' presto per chiamarlo campione, ma buon giocatore. Ma io penso che alla fine... No, non credo che che gli allenatori facciano delle scelte in funzione a volersi male, ecco. Sì, in questo momento De Lofeu le dà garanzie, sicuramente credo che sia una scommessa farlo falso 9, come d'altronde è stato Mertens con Sarri, che l'ha dato ottimi risultati, quindi penso che sia una speranza, perché De Lofeu si è sempre comportato come diciamo un'ala, un'ala sia a destra che a sinistra, lo faceva molto, molto bene all'Everton, anche se era utilizzato ultimamente in contagocce, Escola a Barcellona, si è dimostrato un giocatore anche di grande personalità, perché i numeri si conoscevano in qualche modo, perché la partita che ha fatto Bologna è di grande spessore, indipendentemente che tutti rimangono impressi il numero sulla fascia e il gol di Pardo. Pardo? Ma allora io ho una curiosità innanzitutto che riguarda gli attaccanti, nel senso che erano tanti anni che la sfida per il titolo di capocannoniere non era così interessante, così combattuta. Higuain, Dzeko, Mertens, Belotti, Cardi, come va a finire? Come va a finire? Cioè, diciamo che se uno dovrebbe scommettere, sarebbe Higuain perché in questo momento gioca una squadra più continua e più concreta, anche mentalmente. Penso che Mertens è vero che continuerà a giocare, però prima o poi un po' spazio a Milik, un po' spazio a Pavoletti capiterà. Poi dipenderà anche dell'Inter, per si continuerà a creare, a macinare il gioco, Icardi continuerà a segnare, ma gente che comunque segnerà sempre. Sì. Adesso chi la spunterà è sicuramente uno di questi, anche se fondamentalmente da una parte ho un debole, magari non così calcistico, però sì da tempo non vedevo un giocatore che possa trascinare così tanto come Belotti col Torino, no? Un giocatore che caratterialmente è uno che mi piace, forse tecnicamente ha qualcosa in meno con rispetto ad altri e ha ancora margini di miglioramento, ma sì, credo che caratterialmente uno trascinante. Ho avuto la possibilità anche di vederlo dal vivo la partita San Siro, sebbene amichevole, contro la Germania, ma è uno che alla gente riesce a contagiare, alla garra giusta e anche un carattere poi carino, insomma, nel senso che è abbastanza un bel mix, no? Nel senso, lui è un giocatore sorridente, un giocatore non particolarmente polemico, un ragazzo molto simpatico, e però è vero che in campo ha questa capacità di trascinare la squadra enorme, e penso che sia diverso giocare in una squadra media o in una grande squadra, questa è un'altra cosa. Beh, Erland ha giocato praticamente sempre in grandi squadre, però la dimensione del grande attaccante in una squadra di medio livello, penso a Luca Toni un paio d'anni fa, che tra l'altro abbracciamo per quello che gli è successo sabato, voglio dire, è un po' diverso, no? Nel senso che vieni caricato di una responsabilità per certi versi ancora addirittura superiore, forse hai qualche garanzia in più, nel senso che non hai qualcuno che ti può fregare il posto. Higuain ha fatto anche un po' di turnover, un po' di panchina quest'anno, però credo che sia sì, no, la ma tra l'altro io sono curioso anche di due cose, no? Il primo è impressionante come il Napoli riesca a spremere gol dalla prima punta, da due prime punte così diverse come Higuain e Mertens. Milik giocherà, tu dici, Hernan, ma vediamo, prima perché o poi. Prima o poi, però intanto si va avanti con Dries Mertens che sta segnando su livelli non tanto diversi da Higuain l'anno scorso, e sono giocatori diversi in maniera, cioè opposti praticamente. La seconda cosa è che tu hai giocato in un Milan che è simile alla Juventus di Higuain, in cui c'erano tante stelle e ognuno era chiamato a sacrificarsi. Allora dobbiamo dividere le cose fra la grande squadra e la con la media squadra, e bene, non possiamo parlare del Napoli come come la piccola media, per carità, o del Toro in questo caso per Bellotti. Per l'attaccante succedono due cose: quando tu sei una grande squadra devi imparare anche a condividere, e consapevole che tocca a te, ma può toccare un po' a tutti prima o poi fare questo turnover. Questo a livello psicologico, quindi uno deve imparare a convivere, di non essere, fra virgolette, un intoccabile, no? Prima o poi gira un po' per tutti. A livello tecnico, quello che cambiano sono le distanze che tu hai alla porta. Sì. Quindi praticamente se tu oggi, per esempio il Toro, per dire, oggi Bellotti ha 50 metri alle spalle di un difensore e Icardi o Higuain ha un fazzoletto. Certo. Perché sono squadre che sono protagoniste, sono squadre che hai bisogno di essere più d'aria in quanto altre squadre, no? Quindi se uno va a vedere, quando c'è la possibilità di attaccare lo spazio, il Napoli si diverte. Uh-huh. E la difficoltà si ricrea, fra virgolette, in casa, quando c'è meno spazio per correre. Allora lì dove sarà, secondo me, ci sarà il momento del Milik o del Pavoletti, no? Che saranno probabilmente in qualche modo meno belli a vedere, perché è bello vedere gli attacchi di spazio così come fa il Napoli. Certo. Ma le partite chiuse, l'ariete infatti, è quello che ti fa. Questa è una grande lettura. Palermo. Ma no, questa è la mia vecchia teoria. Insomma, la partita con Palermo me l'aspettavo prima a Pavoletti, anche se non era ancora al meglio. E però questo mi dà sensazioni positive in vista di Madrid, dove poi no, ovviamente, insomma, il livello dell'avversario è enorme, il livello del miedo escenico, no? Della paura che ti può venire nel giocare in uno stadio come quello Visto tuo amico Cassano che ha mandato un SMS a Insigne: non alzare gli occhi. Ma no, ma lo devi alzare come? Sì. Lo devi alzare come? Perché è bellissimo, perché vale la pena fare il calciatore per questi momenti. Quindi, invece sentire la pressione, se non sentire orgogliosi del momento e dove, perché quando uno va a affrontare questi stadi così e queste situazioni così, si deve sentire orgoglioso della carriera che ha fatto, non si deve mai scordare da dove è partito e tutti i sacrifici che ha fatto per arrivarci. Quindi in questo momento non ci sono pressioni, deve essere solo divertimento e gioia e orgoglio di dove sei arrivato. Guarda, e goderti il momento. L'ho chiesto alla persona sbagliata, perché io non dimenticherò la tua frase prima di Manchester. Quella frase prima di Manchester io non me la dimentico più. Non ripetere, perché non siamo in orario. No, siamo in orario, la ripeto tutte le volte. Ti ha chiesto cos'è il gol? Il gol è un orgasmo, sei andato lì, ne hai fatti due, dai. tanta roba, doppio. Ma no, è un po' quello che ha detto Reina in un'intervista, credo a Marca oggi, e io sono d'accordissimo, che il Napoli non deve assolutamente snaturarsi. Il Napoli deve giocare una partita consapevole della propria forza, ovviamente equilibrata. Qualche difettuccio in difesa c'è, qualche difettuccio di equilibrio c'è nel Napoli, ed è forse l'unico vero difetto che c'è, che questa squadra ha, e quindi il discorso con Real Madrid ovviamente vale a maggior ragione. Però andare a Madrid e snaturarsi, andare a Madrid e cercare di cambiare se stessi, ecco, secondo me è l'errore più grande che questa squadra può fare. Assolutamente. E guardare in alto, Hernan, guardare in alto. Ma lo devi guardare, sì. È un momento unico, e io spero per loro, ripetibile. Però perché è bello. Solo dico l'entusiasmo che ha creato Napoli, credo, in tutti noi. Perché tutti, credo che tutti in qualche modo ti fermo Napoli e che passi il turno, che sarebbe qualcosa di straordinario. La mia, diciamo, unica paura, e non è poca, che probabilmente in Serie A ti possono perdonare che sbavatura, tu subisci un gol ma ne puoi fare due o tre. Con quelli lì davanti che affronti, anche se non li regali, se li prendono i gol. Quindi questa è la unica, dico, speriamo bene che un Napoli al 100% e il Real Madrid che, impossibile prendere sotto gamba, perché dal momento che tu affronti una squadra di grande storia come il Napoli, è normale che tu stai sempre sull'attenti. Però sai, magari l'ingordo che l'hanno vinta l'anno scorso, e qui là un po' il pensiero, un po' meno coltello fra i denti, e il Napoli fa una grande gara aperta, aperta. Tutto può succedere, aperta, perché anche loro regalano qualcosa. Quindi sicuro. Fondamentale quelli tre davanti che riescano a essere più cinici possibile. Grazie Hernan. Grazie, un abbraccio. Un abbraccio a tutti voi. Un abbraccio a Hernan Crespo. Pier, ci fermiamo per il traffico, torniamo con Luca dalla provincia di Forlì. Tutti convocati. Tutti convocati, il che vuol dire che tutti siete chiamati a far sentire la vostra voce. 800 24 00 24. Luca, ciao Carlo, ciao. Uso la voce che mi hai appena dato per fare questa considerazione. Io vedo un campionato squilibratissimo e fra l'altro al basso. Le ragioni non lo so, diritti televisivi ripartiti bene male non lo so, però la conseguenza che vedo è che ci sono tre squadre che sono già retrocesse da un mese e c'è mezza Serie A che da un mese a sta parte, a maggio, che cosa farà? Boh, non lo so, me lo dite voi. Se lo diciamo noi, ci proviamo tutte le volte, Pierluigi. Questa è una cosa che sappiamo, un refrain che ritorna ogni settimana. Ma allora, la distanza fra grandi e piccole, lo ripetiamo spesso, purtroppo lo aggiungo io, ma penso che siamo tutti d'accordo, perché l'equilibrio è un valore dello sport e gli americani ce lo insegnano. Gli americani hanno una serie di meccanismi, dal salary cap al draft, non facilmente replicabili, come no sappiamo. Certo, non facilmente replicabili, però hanno filosoficamente sanno che l'equilibrio di un campionato è un valore possibilità importante. Che un, e quindi se tu giochi hai una franchigia, poi ci sono franchigie più spiegate, più forti e meno forti, però fai parte di quel meccanismo lì e hai degli strumenti per poter competere. Lo sport in Europa nasce da una cosa molto diversa, la differenza che esiste tra Real Madrid e lo Osasuna, o che esiste tra la Juve e il Pescara, o che esiste tra il Bayern e il l'Hoffenheim, che tra l'altro sta facendo anche bene. Sì, il problema è che negli Stati Uniti esiste il Pescara di turno nell'NBA, nell'NFL, in tutti i grandi campionati. Ma quel Pescara di turno può diventare una grande. Solo che la logica può diventare una grande per il meccanismo delle scelte. Non è che i Lakers, vedi quello che sta succedendo, siano per forza più forti di, non lo so, dimmi tu, sei molto più preparato di me, dei Bobcats. Cioè, voglio dire, esiste un meccanismo per cui le franchigie comunque hanno il salary cap, hanno delle fasi ovviamente storiche più o meno positive che sono legate a determinate generazioni di giocatori, certo, che si tengono stretti ovviamente quando il problema è che lì accetti dichiaratamente delle stagioni perdenti addirittura ai limiti dell'imbarazzo, qui ti bruciano la macchina come a Pescara, capito? Sixers, no, che facevano esatto. Veniva quasi il sospetto del professor apposta ai miei poveri Sixers. Vabbè, detto questo, il punto però è un altro. Quindi il meccanismo, lo sport europeo nasce culturalmente con un meccanismo completamente diverso e con una filosofia diversa, che negli ultimi anni la quantità di denaro enorme che è arrivata, ed è giusto che insomma, il denaro vada a chi vince, perché non a chi perde, insomma ha divaricato ancora di più la forbice tra grandi e piccoli. Da questo punto di vista siamo secondo me abbastanza in buona compagnia, cioè non è che in Spagna sia molto diverso o in Germania sia molto diverso o in Francia sia molto diverso. Quest'anno in Francia c'è un campionato un po' più equilibrato. L'unico campionato veramente molto equilibrato che ha, non dico è quello inglese, indubbiamente, perché lì sono tutti ricchi, è facile, perché lì sono tutti ricchi esattamente. Questo, la Champions League è un grande acceleratore ed è un grande divaricatore di differenze fra grandi e piccole, quindi ci piace ovviamente, però no, ma infatti ha questa piccola controindicazione. Io adesso allargando a dismisura gli orizzonti vedo all'orizzonte, un orizzonte temporale lungo quanto vuoi, un super campionato, una super lega europea, come sta succedendo ad esempio nella pallacanestro. Sì, anche se in realtà poi la Superlega di fatto già c'è, nel senso che la Champions League è diventata per molti club l'obiettivo fondamentale della stagione. Certo, poi ma non è un campionato. Non è un campionato, è rimasta una coppa sicuramente, però se tu ti metti nei panni del Bayern o del Paris Saint-Germain o degli stessi Real Madrid e Barcellona, la Champions e anche della Juventus, perché la Juventus ormai, esatto, non dico, mi pare chiaro che non si è ancora rotta le scatole di vincere in Italia, però è evidente che in Europa deve far bene, perché dopo 5 anni che vinci il campionato, se in Europa esci, non ti dico che lo scudetto non conta nulla, conta sempre tanto, però ovviamente è depotenziato. E ripeto, è tipico di chi ha la strada facile nel proprio paese, c'è poco da fare da questo punto di vista. L'equilibrio, sicuramente, 18 squadre invece di 20 potrebbero semplificare. Io ribadisco, secondo me, la quarta retrocessione, visto che abbiamo cambiato 20 squadre, sarebbe molto utile. Quest'anno ce ne accorgiamo in maniera clamorosa, perché le ultime tre sono proprio in grandissimo ritardo. Se quest'anno noi avessimo quattro retrocessioni, insomma, ci sarebbe mezza Serie A che ancora tremerebbe. Sì, soprattutto sì, quella sì, a 26, sì. Ma anche quella a 30, voglio dire, la quarta salvezza si alzerebbe di 8 punti in questo momento, sarebbe molto diverso. Quindi, insomma, mi sembra francamente che qualche correttivo si possa apportare, però il vento va tutto in quella direzione lì, cioè la Juve che è stata quella che ha investito meglio i soldi, lo stadio in questi anni, lo scorso anno al risultato sportivo coincide un risultato economico pazzesco, 388 milioni di fatturato, che è il miglior risultato di sempre, e quindi vinci, hai sempre più soldi e programmi il futuro. Cioè, programmi il futuro, continui a vincere ed è un circolo vizioso, virtuoso. Gli inglesi, no? Vizioso per l'equilibrio del campionato. Certo, certo. Giovanni, buongiorno. Poi salutiamo Pardo che va a palleggiare ticchettaccheggiando. Buongiorno, io sono un interista doc. Cosa vuol dire doc? Sì, di origine controllata. Va bene. Secondo che tanti anni che ascolto Radio 24, sono stanco di sentire sempre gli interisti si lamentano, gli interisti sono così, gli interisti quella. Ma lo sa lei che quando Ferrara è entrato sulla porta con l'Udinese, mezzo metro, e lì ci hanno ingannato, mi hanno tolto la vita del calcio, perché io vivo il calcio da 60 anni. E quando le cose sono fatte rubate, mi dà un fastidio. E poi voi tutti quanti ce l'hanno con gli interisti, ma siamo stanchi di sentire sempre che siamo così, siamo quella, perché abbiamo visto come è andata a finire poi, no? Giusto, signor Gedda? Giusto? Sì, abbiamo visto come è andata a finire. Torniamo indietro al 2006 e non, anche qui è un circolo, no, in questo caso solo vizioso, adesso farà arrabbiare l'ascoltatore. Io penso che negli anni nei quali l'Inter è stata il potere, cioè la squadra più forte del calcio italiano, se ci andiamo a ripescare molti episodi, se vi ricordate bene, l'Inter era considerata dagli avversari dell'Inter la squadra favorita dagli arbitri. Cioè, secondo me è un destino questo di chi è più forte e di chi è probabilmente anche più potente. In qualche modo si ricollega al discorso di prima, anche il triplete, che è stata una cosa leggendaria, senza nulla togliere. Comunque, se andiamo a vedere i passaggi fondamentali, qualche passaggio tra virgolette fortunato, in assoluta buona fede c'è stato. Quindi sì, anche in Coppa, volendo. Assolutamente. Quindi questo voglio dire, è un tema secondo me che esiste. Poi, ripeto, secondo me se avesse dato il rigore quello di Mandžukić non sarebbe stato uno scandalo. Sì, ma non è sembrata una partita tale da destare il casino che ha poi creato. Torni sull'argomento stasera, tiki-taka? Sì, torniamo sull'argomento, ci colleghiamo con Madrid, dove abbiamo i nostri primi avamposti, una cena con Cristian Panucci, Vicente del Bosque, Morientes, Roberto Carlos e tantissime altre cose, ovviamente tutto Lazio Milan con i collegamenti in diretta all'Olimpico, certo. E tutto il resto, e la grande attesa del Napoli, Nainggolan, che è un, insomma, diciamo, nel bene e nel male, no? Magari discusso per certe cose extra campo, ma poi questa adrenalina qui la trasforma, e ieri ha risposto lui. Sì, comunque, lo sappiamo. Ti vedo stasera, ciao Pier. Ciao GR. Convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Ricominciamo tutti ai vostri posti. Tutti convocati. Dunque, ragazzi, ho deciso di inaugurare una nuova rubrica, visto che con Maestro Corneo Martoletti il martedì siamo ormai scivolati sul lirico. Voglio inaugurare la rubrica delle pagelle dei grandi direttori italiani del lunedì, e voglio partire da Federico Ferri, che è direttore di Sky Sport, non più ai piani alti ma nel superattico. Hanno dovuto costruirne uno apposta al quartiere di Santa Giulia. Buongiorno direttore. Buongiorno, a tradimento proprio, Fagellone. A tradimento, Federico. Sai che ti voglio bene, sai che ti voglio bene. A tradimento, sì. Comunque, dimmi. Sempre allo stesso posto, te lo volevo confermare perché so che ci tieni. Secondo piano. Sempre qui. Sempre qui. Dammi un voto alla settimana del calcio italiano. Sebastiani e l'auto bruciata, Inter-Juve infinita, Toni aggredito, Nainggolan con le sue lucubrazioni di fronte ai soliti ignoti, valgono anche i numeri negativi. Allora, 5, che è la media fra lo 0, che deriva da questa settimana, e il 10... dei molti che hanno capito che la direzione è sbagliata. Se serviva forse toccare il fondo, credo che questa settimana sia stato toccato. Voglio vedere positivamente il fatto che si sta prendendo piede un sano disgusto verso questo modo di vedere lo sport, e secondo me ce la possiamo fare, insomma. Questa lettura mi piace moltissimo, fa un po' al paio con quanto l'interista Cerasa, direttore del Foglio, ha scritto l'altro giorno sul suo giornale, quindi è una lettura che apprezzo moltissimo. E quindi in questo caso per Cerasa aggiungo anche la lode. Per Cerasa, sì, vuoi farlo serenamente. Dunque, Napoli, Juventus, Roma, Fiorentina, andiamo verso le coppe. Negli ultimi due anni ci siamo fermati all'inverno, non abbiamo visto spuntare fiori. L'ultimo mazzo di consolazione rimane quello della Juventus, due stagioni or sono, nella finale persa. Voto alle possibilità di veder spuntare le foglie tra i rovi. No, il voto è secondo me alto, diciamo 7, perché credo che questa Juventus in modo particolare abbia delle caratteristiche e una mentalità che sta costruendo propedeutica a un percorso europeo interessante. Poi ovviamente molto dipende dal sorteggio. Il sorteggio questa volta non si può dire che sia stato malevolo, dunque una possibilità c'è. A differenza del Napoli, parlo del sorteggio, dico che è stato invece molto difficile, ma non parte battuto, nemmeno con Real. Il voto alto si giustifica anche perché secondo me questo è un anno da ora e un mai più anche in Europa League. Sì. Per me c'è una squadra che ha le caratteristiche per poter arrivare fino in fondo, della Roma. Spero che abbiano anche la consapevolezza del valore di questa competizione, dell'occasione che hanno. Io credo che ci siano delle caratteristiche di questa squadra che possa fare molto bene, a cominciare dal tipo di attaccante che ha Dzeko, dal momento straordinario di Nainggolan. Basta non fargli tirare i rigori. Esatto. Da una solidità che non le riconoscevamo anche nella fase difensiva. Insomma, io credo che davvero ci siano le possibilità per la Roma di andare avanti. Sì, io lo spero proprio. Guarda, ieri ho voluto essere malizioso fino in fondo, facendo notare che la Roma va a trovarsi in un imbuto di calendario nel momento in cui affronta l'Europa League. Imbuto dovuto alla Coppa Italia, imbuto dovuto a partite di campionato particolarmente significative che deve affrontare, cioè quella con il Napoli. Non vorrei che facesse dei calcoli un po' perversi. Io voglio credere di no. Ma me lo auguro perché, ribadisco, sarebbe buttare via una chance grossa. Oggi l'Europa League a marzo e a febbraio viene vista diversamente che nelle fasi finali a maggio, e questo è un errore grave, perché io penso che sogno un Roma United che voglio vedere se poi non c'è voglia di giocarla quella partita. Credo che sia proprio giusto per la storia della Roma tornare ad un percorso europeo degno del valore di questa squadra. È proprio una grande occasione. Ma che scherzi, io fossi juventino non avrei ancora perdonato a Conte l'Europa League buttata in casa contro e data al Benfica. Fossi juventino non gliel'avrei ancora perdonata quella, mentre molti altri juventini l'hanno fatto. A questo proposito, dammi anche un voto alle possibilità che Allegri resti alla Juve nonostante alcune battute secondo me anche un po' pinocchiesche. Allora, da 1 a 10 te ne do la metà, 5. Non credo che siano così alte, c'è una possibilità che rimanga, ma non credo che siano così alte. Lo dico per un motivo, perché io credo che se dovesse arrivare il sesto scudetto ci sia un po' una necessità e un'aria anche per lui di fine ciclo. Io ho in testa una cosa, credo che sia molto... Allegri ha un ottimo rapporto con i dirigenti della Juventus. So ad esempio che Marotta lo ritiene proprio l'allenatore ideale per allenare questo tipo di squadra, e il modo in cui è uscito da una situazione potenzialmente pericolosa, ovvero gestire una squadra con tre attaccanti che devono sostanzialmente giocare tutti, Mandzukic compreso, trovando quest'idea secondo me molto illuminata dell'attacco a quattro stelle, dimostra quanto sia pratico, intelligente, brillante e soprattutto come sposi le esigenze del club e le traduca in fatti sul campo che vogliono dire le vittorie. Detto questo, ribadisco, se arriva il sesto scudetto credo che ci sia un po' un'area anche di fine ciclo da questo punto di vista la Juventus. Difficile poi rimotivare i giocatori. Esatto, ma tutto dipende secondo me da una situazione chiave che è quello che accade in Inghilterra, perché io penso che al di là delle possibilità in Spagna il prossimo passo di Allegri sia lontano dall'Italia e per come stanno andando gli allenatori italiani in Inghilterra io penso che soprattutto una panchina come quella dell'Arsenal, se dovesse veramente liberarsi, sarebbe quella che poi fa svoltare anche tutto il mercato degli allenatori, come si diceva qualche anno fa, il valzer delle panchine, il valzer delle braves, ripescato dal mercato anni 80, mercato, una citazione anni 80. No, ma Fede, ma poi Allegri non è neanche di quegli allenatori alla Mourinho, alla Conte, per cui uno dice tre anni sono il limite fisiologico, non è uno che stressa emotivamente i giocatori a quel punto, però in effetti dovesse finire con il terzo scudetto consecutivo, la Coppa Italia vediamo, la Champions League vediamo pure, io dall'inizio per simpatia nei confronti di Allegri, che trovo un top coach sicuramente e una persona molto intelligente, mi sta... A me sta simpatico, non lo nascondo, pur non essendo juventino, il mio sogno è quello di vederlo alzare la coppa in faccia ai criticoni bianconeri che sono sempre lì e che sarebbero disposti a cambiarlo anche domani con Paolo Sosa, che potrebbe essere quello che verrà, e poi salutare la banda e andare da un'altra parte. Se parli di alzare la coppa, quella importante, direi che a quel punto Allegri proprio dovrebbe, non è che sarebbe... posizione quella di andare, perché meglio di così so che cosa si possa fare. Certo, ma certamente. Quindi per la nostra mentalità è italiana, parlo, perché poi dopo fosse altrove magari si aprirebbe un ciclo tipo in Inghilterra con gli allenatori che restano 10, 15, 20 anni. Però io credo che sia proprio anche una questione di opportunità professionali. Se dovesse liberarsi una grande panchina, ribadisco, ritorno a parlare di Inghilterra, credo che soprattutto in caso di vittoria dello scudetto sarebbe anche quasi... potrebbe volere appunto fare questa esperienza. Assolutamente. Se lo merita in assoluto, è un grandissimo allenatore. Parliamo di un altro allenatore, poi andiamo in Inghilterra per chiudere. Ti faccio sentire quello che ha detto ieri Donadoni dopo la sconfitta con la Sampdoria. Se questo episodio qui capita a una squadra grande, ce l'abbiamo visto in queste settimane chiacchierare, parlare, Inter, Juve, di tutto quello che è successo. È chiaro che se succede al Bologna o succede a Chievo, a Pescara o a Palermo, va bene così, tanto non succede nulla, no? Allora, il Bologna reduce da 3 sconfitte in cui ha preso 7 gol con il Napoli, 1 con il Milan in ridotto in 9 e 3 ieri a Genova. È vero, la vittoria della Sampdoria si è concretizzata nel finale, però io il voto lo darei bassino. Devo dirti anch'io, perché capisco un po' l'amarezza di Donadoni, conoscendo anche il valore umano e professionale, però... questi argomenti hanno un po' stufato, o meglio, io credo che apprezzo di più quello che poi ha detto Donadoni quando ha parlato chiaramente di un problema di qualità dell'assistente che ha preso la decisione dell'arbitro, no? E io questo lo posso anche capire, tu critichi il fatto, questo non è bravo, ha sbagliato perché non è bravo, e lo capisco di più rispetto a quest'altro argomento. Se questo argomento esiste, perché evidentemente esiste, perché non lo dice soltanto Donadoni, allora dobbiamo porci un'altra domanda, e soprattutto se la deve porre la classe arbitrale, cioè perché continua a esserci questo, lo chiamo pregiudizio, ma poi potrebbe anche non essere tale, delle piccole squadre che si sentono da questo punto di vista messe in secondo piano. Allora, io credo che giustificare la sconfitta in questo modo sia sempre sbagliato, prima di tutto nei confronti della tua squadra. Dico però che se stiamo ancora a discutere di questo argomento, probabilmente anche Nicchi e tutta la classe arbitrale dovrebbero porsi la domanda di come fare ad essere comunque più credibili, perché se questo problema emerge con questa forza, io credo che un po' di autocritica gli arbitri la debbano fare. Anche detto se io questo, ieri non giocava il Bologna contro la Juventus, giocava contro la Sampdoria, certo, quindi certo. In ogni caso questo tipo di parole di Donadoni sono poco comprensibili. Chiudo proprio 10 secondi con un piccolo appunto che viene al termine di tutta questa settimana. Tutti quelli che parlano in questo modo, e dico tutti a 360 gradi, e mi metto dentro anche io, di arbitri, di sistema, di immagini fatte vedere, non fatte vedere, di tutto, devono rendersi conto, secondo me, con senso forte di responsabilità, che ogni volta che dicono queste cose si attacca la credibilità del gioco. Questo assolutamente. La credibilità del gioco è fondamentale ed è uno dei primi tesori da proteggere se vogliamo bene allo sport di cui parliamo, perché altrimenti, prima andando avanti così, ci sarà qualcuno che dice vabbè, ma a me non mi interessa mica tanto vedere una cosa che le grandi squadre, le piccole squadre, l'errore, vado da un'altra parte. Cioè, questa è la responsabilità vera, secondo me, che adesso abbiamo tutti noi che parliamo di sport, che non vuol dire non raccontare le cose, anzi, no, chiaro, vuol dire forse essere ancora più critici. Però attenzione, perché da questo punto di vista dobbiamo tutelare il gioco, e alla lunga, se ogni volta ci fa comodo dire che abbiamo perso per colpa di qualcun altro, allora no, poi diventa dura, puoi crederci ancora. Tu parli con uno che resta nella riserva indiana sempre più sparuta di quelli cui piace il calcio, con le sue imperfezioni, con i suoi errori che vengono dai giocatori o dagli allenatori o dagli arbitri, fermo restando nella riserva indiana e appeso alla porta il principio della credibilità. Poi adesso saltano fuori, certo, quelli che mi parlano di calciopoli eccetera eccetera, ma ormai sono abituato, le spalle larghe su questo argomento, non è mica un problema. No, ma capisco di più il Donadoni, ribadisco che dice l'arbitro è scarso, perché il rigore di ieri non si può dare, cioè, proprio non si può dare, e sono d'accordissimo con lui da questo punto di vista. Sì. Tirare in ballo l'altra questione, ribadisco. Sì, ma non si può neanche tirare un rigore come ha tirato Dzeko un paio di settimane fa, facendo trasformazione, per carità, trasformazione rugbistica. Fede, un'ultima battuta, un ultimo voto che ti chiedo, riguarda la Premier, un voto alle possibilità dell'Leicester di restare in Premier League. Non ci voglio pensare. Nemmeno io, sai. Comunque alte, c'è un dato molto preoccupante, soprattutto quello della tenuta difensiva. È una squadra che è molto slegata, molto disunita, e non è da Ranieri questo. Però penso che alla fine si salveranno, quindi ti do 7-8 di probabilità. Io penso che si salveranno. Io sono pessimista, forse, invece, penso un po'. Sì? Sì, io do un 4-5, sai. Perché quando vieni da così in alto è come, insomma, trovarti al party più bello del mondo e il giorno dopo essere a fare la conta delle monetine per comprare il pane. Magari pure un po' ubriaco. Sì. Grazie mille Federico, grazie, buon lavoro. Grazie. Ciao. Federico Ferri, direttore di Sky Sport. E adesso Pietro da Roma, poi andiamo con una clamorosa top 3 delle dichiarazioni del weekend. Buongiorno Pietro. Buongiorno e buon pomeriggio. Se mi consente una riflessione. Le consento tutto quello che vuole. Peccato che non c'è più il rappresentante di Sky. Volevo fare questa riflessione. Prima che avvenisse, diciamo, la ricchezza delle televisioni che ha pioggia, e non tanta pioggia, ma quanto a determinate società vengono erogati proventi televisivi immensi, prima di che questo avvenisse ogni 5-6 anni una squadra che non era Juve, Inter, Milan poteva sognare di vincere lo scudetto, e la storia lo sta dimostrando. Con l'arrivo delle televisioni a pagamento questo non avviene più, perché questo lo dobbiamo dire a tutto il mondo, no? Scusa l'Inghilterra, dove sono tutti allora ricchi. Che serve che il Crotone viene in Serie A quando l'anno appresso ritorna in Serie B? Perché non ha soldi da spendere, non può comprare campioni, e questo vale per tutte quelle squadre che dopo aver percorso tanti gironi per poter emergere si vedono costretti a ritornare subito indietro perché non hanno i mezzi. Beh, amico mio, il sistema è ormai fatto così in tutti i paesi, Inghilterra esclusa, perché lo dicevamo prima, lì sono tutti ricchi e di conseguenza hanno possibilità che gli altri non hanno, e può succedere qualcosa come quello che è successo all'Leicester l'anno scorso e che sta pagando quest'anno. Negli altri paesi non è possibile, ed è per quello che io vedo in un futuro lontano, quando magari gireranno le astronavi, un campionato a parte come l'Eurolega di quest'anno, cioè un vero e proprio campionato europeo tra queste squadre che adesso sono corazzate negli stagni. E non succede soltanto in Italia. Oggi è il giorno delle teste coronate, prima Gigi Riva che ha ricevuto la più alta onorificenza del CONI, poi De Biasi che è diventato cavaliere, adesso il barone Andrea Lo Cicero. Ciao barone. Ciao, ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Andrea, non ci siamo. Sì, io non ho ricevuto nessuna onorificenza ultimamente. No, però sei il barone. Sto scherzando. Il barone del rugby italiano, Andrea Lo Cicero. No, non ci siamo. Italia Galles 7-33, Italia Irlanda 10-63, totale 17-96. Va bene che siamo all'inizio di una nuova era, di un nuovo ciclo, dell'addio ai senatori di cui tu facevi parte, di un nuovo commissario tecnico arrivato anche troppo tardi rispetto al necessario, però sono risultati imbarazzanti. Non posso dire il contrario, perché è l'evidenza. Il problema è che abbiamo preso parecchi punti in due partite, e questo non va bene. Io penso però una cosa, che la federazione debba riflettere tutte le volte che sceglie un allenatore. Allora, cerchiamo di dare un'indicazione. Che tipo di gioco ci piace? Cosa vogliamo fare? Scegliamo una nazione e seguiamo quello. No, ogni 3 anni cambiamo, perché anche questo è destabilizzante, ti fa crescere ma ti fa andare anche indietro. E quindi da che parte andiamo? Cioè, perché con gli allenatori io non sono facente parte della federazione, lo so Andrea, però la storia insegna che con allenatori, ad esempio francesi, abbiamo fatto le cose migliori, con quella scuola ci sposiamo, con allenatori dell'altro emisfero abbiamo fatto i passi del gambero. Adesso ci proviamo con un altro tipo di rugby, conosci. Sempre britannico. E quindi decidiamoci. Ma infatti è quello che ho sempre detto io. Allora, già abbiamo la problematica, abbiamo avuto adesso superata ampiamente, perché i giovani italiani si stanno imponendo con tutta questa ondata di ragazzi oriundi. Per carità, nulla contro gli oriundi, però chiaramente abbiamo levato anche spazio ai giovani italiani, che quindi non sono così campioni questi oriundi. Ma detto questo, cerchiamo di fare delle scelte per il nostro movimento, che cresca una volta per tutte. Quindi semplicemente io, non è una critica nei confronti, lo staff tecnico sta iniziando adesso, si è trovata una squadra da costruire, da rinforzare, da cercare di far capire qual è il pensiero che questo staff tecnico ha dentro la testa. Andrea, Oshia aveva detto all'inizio della sua avventura: non voglio più vedere inizi in cui riusciamo a contenere gli avversari e poi secondo tempo incalando. Il refrain è lo stesso. Purtroppo è così, però dobbiamo dire una cosa. Allora, queste due franchigie che abbiamo, cosa fanno? Prendono un sacco di punti fuori. Sì. Non vincono, non sono competitive. No. Allora perché? Chiediamoci il perché queste squadre non sono competitive. Allora, noi non siamo in questo momento capaci di giocare ad alto livello e a mantenere l'alto livello, perché l'evidenza in campo internazionale ti fa vedere questo. Io non penso che i giocatori non hanno la voglia di dimostrare il loro valore, ce l'hanno assolutamente, lo vedo, però non ci arrivano, c'è qualcosa che bisogna fare di diverso. E io vedo questo, il livello delle Zebre e della Benetton purtroppo è insufficiente. Io continuo a pensare che all'idea del Club Italia che giochi quel tipo di manifestazioni, che possa aggiungere qualcosa alla nazionale, che è il nostro valore assoluto. Però ripeto, questo lo penso anch'io, perché tu aiuti una squadra a giocare tutto l'anno insieme e un allenatore della nazionale si trova una nazionale che prima era un club ad essere una squadra competitiva. Quindi se non ti organizzi così è probabile che fai sempre le figure, anche perché i giovani possono giocare in un campionato tipo quello delle Zebre della Benetton Treviso, quelli che escono dalle accademie, quindi devi dare continuità a questo sistema che la federazione ha creato. Però mi sembra che c'è un po' di confusione anche a livello di gestione di questo che vogliono imporre al nostro rugby. Grazie Andrea, grazie Barone, grazie Andrea Lo Cicero, alla prossima. Ragazzi, non riesco a farvi sentire la top 3 delle dichiarazioni del fine settimana, sono abbastanza triste per questo, ma domani abbiamo tempo di recuperare, perché tanto restano lì, le mettiamo nel freezer e sono buone anche domani, ve lo assicuro. Io ringrazio Giorgio De Luca in contumacia, il nostro autore che è volato a Madrid e che sentiremo nei prossimi giorni. Ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.